saluto da Max Macchia che rientra e vi saluta, contento insomma di rientrare, di salutarvi appunto in diretta. E prima puntata, anzi puntata zero di 451 frammenti sonori, puntata zero perché di fatto insomma non una sorta di puntata clandestina, non pubblicizzata, ecco, immediata. Probabilmente ecco come anche come concezione, come si poteva fare la radio una volta, oppure immaginarsela insomma una radio appunto che abbia una comunicazione diretta e quindi anche come dire non tutto il bailam poi legato alla pubblicizzazione e alla forma, alla comunicazione extra radiofonica, che comunque di fatto sta diventando un tutt'uno con la stessa appunto trasmissione, quindi con gli stessi contenuti, e invece appunto nella clandestinità insomma del non pubblicizzarlo soprattutto tramite social e quant'altro, beh, Max Macchia appunto vi saluta e vi dà appunto così il saluto di avvio, di rientro per quanto riguarda i nostri 451 frammenti sonori. Questa sera puntata zero, una sorta di elegia post estiva, probabilmente una sorta insomma di end of summer, anche se poi di fatto tecnicamente a livello di calendario non è ancora finita, per chi magari ascolterà tramite blog magari lo sarà anche abbondantemente, ma tant'è che questa sera insomma portando così a quel tono malinconico magari che a settembre connota insomma questo periodo bello, ma anche appunto con questa sorta insomma, oltre che le preoccupazioni ovviamente epocali che oramai non come dire oramai sono strutturali, non fanno parte insomma della nostra quotidianità, c'è cioè anche insomma in un certo qual senso insomma ancora forse in maniera romantica, ecco, l'idea insomma e il sentimento di una insomma della stagione estiva che finisce, e su questo sentimento appunto elegiaco, permettetemi insomma di essere sentimentale una volta tanto, ma d'altronde poi anche qua da queste parti insomma si sperimentano anche sentimenti inauditi, scherzo ovviamente, e ogni tanto insomma siamo sentimentali anche da queste parti, e iniziando appunto questo 451 zero o puntata zero, è una sorta appunto di elegia, forse prima parte, chissà e se ci sarà anche una seconda. Beh, andiamo a trovare appunto uno dei suoni più illuminati, anche se appunto con quella tessitura non mesta ma sicuramente malinconica, e quel filo di così di opalescenza, di velatura che ha la musica di Sara Davaci, una delle artiste in primo luogo, perché mi state ascoltando, più amate da queste parti di 451, ma probabilmente una delle punte di diamante per quanto riguarda le musiche sperimentali tutte, soprattutto insomma legate in particolar modo a quel suono che prende tanto dalla drone music e come da mondi eteri che si fanno anche appunto, si velano di quella malinconia e addirittura vanno a toccare anche quei luoghi che sono molto distanti anche in termini temporali, che possono essere quelli di una quasi folk music, o ancora per meglio dire insomma un acid folk, che passa attraverso appunto canali molto particolari, acque che nel corso dei decenni hanno portato anche a sperimentare la Sara Davaci, giovane autrice insomma, rispetto però a quello che è un percorso che ha attraversato anche certi momenti appunto delle city folk e anche altri momenti legati più a un ambient con tessiture vicine a certo minimalismo, magari soprattutto early minimalismo, quindi insomma certe forme che potremmo insomma fare risalire a certo Tony Conrad e la Monte Young, ma tutto con appunto questa sensibilità che, ecco, per non sminuire, eviterò insomma anche qua insomma di utilizzare termini che ci portano direttamente al romanticismo, ma che hanno sicuramente un sentire che è molto molto molto profondo nelle musiche e nell'espressione appunto di Sara Davaci, che appunto apre questo 451 elegiaco. Speriamo insomma che lo sia di fatto, una musica sicuramente sì, forse un po' meno io, questa puntata appunto zero di 451. sarà Davachi per iniziare, per ridare, insomma, come dire, anche animo a 451 frammenti sonori, oltre che animo, insomma, è difficile poi dire, insomma, con l'elegia, appunto, associarla alla forza, ma in realtà poi, appunto, come è una forza vera e propria quella dell'essere così, con questa vaghezza ma malinconica nelle musiche di Sara Davachi, nelle altre musiche che ascolteremo da qua, insomma, è a 40 minuti circa. E con la Davachi, appunto, poi non soltanto si vanno a toccare corde anche piuttosto forti, proprio date probabilmente, poi è anche un ossimoro se non un paradosso, proprio da questo suono che veramente sembra impalpabile, se poi per alcuni aspetti, insomma, soprattutto il primo pezzo ascoltato da questo ultimo Antiphonals, va a trattare in maniera astratta, eterea, questa materia sonora è comunque sempre carica di aspetti, oltre che sperimentali, anche di comunicazione emotiva, oltre che dare anche questa visionarietà, quindi questo visivo che diventa un oltre e quindi diventa, insomma, visionario. E nel secondo pezzo abbiamo sentito proprio una sorta di terra che appunto viene da quindi un ritorno a terra, ma come avviene? Attraverso un ricordo anch'esso vago di in questo caso di Essie Folk e di appunto qualcosa di materico che però si fa un altrove con Davachi, si rompe appunto lo spazio-tempo, hanno questa grandissima forza e le musiche della Davachi, come un progetto decisamente nuovo, anche se loro non sono proprio novelle e alle edizioni discografiche, pubblicazioni e a far musica, Nathalie Chami e Whitney Johnson e Damiana il loro così, con questa evocazione ovviamente è molto italiofana, sì, e che però, insomma, c'entra ben poco, poi non so da dove viene, insomma, questo Damiana in termini appunto di nome sociale, che è una ragione sociale, chiamiamola così, ma di fatto, insomma, sia Nathalie Chami che Whitney Johnson, come la Sara Davachi, riescono talmente a mischiare le carte, ma non soltanto appunto per giocare magari in maniera postmoderna, ma tutt'altro, anzi siamo lontani anni luce da giochi anche molto interessanti, perché no, legati appunto alla composizione di matrice minimalista, post-minimalista, con tanto però appunto di rimando, di citazione, di gioco appunto post-moderno. Qua siamo a una tessitura piuttosto particolare tra quello che può essere appunto un suono post-minimalista e una attitudine molto aperta verso musiche eteree, musiche che probabilmente, insomma, vengono ispirate anche da grandi, insomma, diventate grandi poi tra l'altro con stampe di lavori mai prima stampati, come la Susan Chani, e quindi anche questo lavoro sull'elettronica, sul synth, che ha qualcosa sempre veramente di alieno, ma nel senso appunto di non terrestre, di sconosciuto, di non identificato nel punto in questo perdersi, perdersi poi in maniera anche piuttosto così suadente per molti aspetti, e con Damiana questo progetto, e con appunto questa poi alone anche qua di una certa malinconia, una sorta di elegia, appunto di suono elegiaco, che ci porta insomma lontano, ma non facendoci mai insomma deragliare, accompagnandoci, non c'è tutt'altro, una forza molto dolce, ecco, quella di Damiana per molti aspetti, oltre che essere appunto decisamente elegiaca. Ce l'andiamo appunto ad ascoltare, Damiana. synth quasi aeroformi, quelli della Chami, una delle due Damiana di questo progetto, e la Johnson invece questi loop che provengono anche dal trattamento appunto della sua viola, come abbiamo sentito fino a qualche secondo fa. E continuando con una sorta di suono che va a prendere anche tanto da forme anche neoclassiche, perché no, ma è un neoclassico che a questo punto anche qua, insomma, prima ho usato il termine romantico, addirittura qua sto usando il termine neoclassico, e sono quasi, insomma, perlomeno fino a poco tempo fa, da queste parti, come spesso dico, erano quasi una sorta di bestemmie, non è parzialmente vero, insomma, ma di fatto, insomma, il suono neoclassico da Johnson a altre figure, insomma, come lo stesso autore che ha dato proprio l'incipit, tra l'altro, alla carriera di Anne Mueller, che appunto ascolteremo tra qualche secondo. Sono sicuramente delle figure, Nis Fram in questo caso, Johnson prima citato, sono figure che, riprendendo un suono che va tanto anche proprio nel classico, quindi in questo senso il neo chiaramente prende una sottolineatura, insomma, piuttosto importante, perché c'è molta elettronica e un senso poi anche, se vogliamo, sì, forse più come attitudine così generale, ma poi in realtà, entrando dentro i lavori, in questo caso di Fram citato, e Johnson, che purtroppo non è più con noi, Johansen, scusate, che nel particolare hanno anche proprio una ricerca del suono, che quindi magari le avvicina anche a certe sperimentazioni, per quanto riguarda Johansen in particolar modo, ma anche per Fram, quel suono pianistico che ovviamente, insomma, vuole andare a toccare, a evocare, insomma, anche qua suoni che di classico hanno poco niente, ma poi appunto un discorso in generale diventa quasi una sorta di neocomposizione, in questo senso potremmo parlare, insomma, di classico e di attitudine che ci porta appunto nel mondo non dell'avanguardia, ma appunto del classico, ma con un'attitudine che per molti aspetti, insomma, si può dire anche avventurosa, ecco. In questo caso Anne Mueller in effetti sperimenta con questo appunto questa capacità, insomma, di trattare il suono classico, in questo caso più contemporaneo, più che appunto neoclassico. E poi appunto un senso del astratto, che però appunto si tinge di malinconico, e con momenti anche quasi filiformi, quasi appunto quasi a volersi fare qualcosa di essenziale, ecco, rispetto a anche un suono che soprattutto una composizione che vuole attingere, insomma, a certe visioni, insomma, poetiche, a delle visioni, insomma, che si fanno anche appunto malinconiche, se non addirittura in alcuni casi anche tristi, ma andando poi all'essenza perdono, insomma, quel lato che magari potrebbe anche diventare stucchevole, e diventa invece un discorso assai interessante anche qua per tessitura sonora e per composizione. Thank you. e qua magari con Anne Müller, visto che è tedesca, beh, si sente sicuramente insomma il lato più mesto, più triste, seppur appunto con questo mondo poetico, insomma, visivo, ecco, più che visionario per quanto la riguarda, insomma, visto che prima facevamo per quanto riguarda Damiana, ma soprattutto per Sara Davashi, il visivo che diventa, appunto, va oltre, diventa visionario. Ecco, forse con la Müller siamo ancora nel visivo, seppur quel visivo, insomma, che va a trovare magari quei paesaggi, insomma, così brumosi, quei paesaggi autunnali, anche in questo senso ci potremmo anche così ricollegare a quello che dicevo all'inizio di questa puntata zero, appunto, di 451, quindi di questa end of summer, di questo inizio di una stagione, insomma, che è quell'autunnale che si vuole, insomma, associare, vogliamo associare, insomma, tendenzialmente alla malinconia, poi, come dire, con tutto quello che forse fino a poco tempo fa si poteva ancora pensare in termini romantici, insomma, rispetto alle stagioni, ma insomma con l'antropocene e sono ben altre le faccende, però. Ma poi alla fine, come dire, forse appunto ritrovare anche questo sentire, ecco, rispetto anche appunto alla stagionalità, ai sentimenti legati a questi, beh, forse ci riportano non per forza così a un'attitudine postumana che ci sta accompagnando, volenti o nolenti, insomma, entusiasti o meno di questa faccenda, o tristi appunto e mesti. Ma per finire direi che Jason Sharp con il suo Turning Center of Steel World ci sta piuttosto bene come appunto carattere così appunto elegiaco finale, ecco, di questo 451 frammenti sonori. Max Macchia vi dà appuntamento al prossimo mercoledì. Qua con Jason Sharp si va dentro il mondo della Constellation, quindi tutte le orchestrazioni post rock che negli anni 90 in poi ci accompagnano, un mondo veramente elegiaco e sempre comunque che ci porta, insomma, verso una sorta di malinconia illuminata, ecco. E nel caso di Jason Sharp addirittura c'è anche un filo di jazz che non va a guastare, anzi, e poi quel senso anche quasi sinfonico che abbiamo toccato anche parzialmente con Anne Müller. Vi saluta appunto ancora e più forte di prima Max Macchia, vi rimanda al prossimo 451. Ciao, fate i bravi, eh.